rassegna stampa Europa. Buongiorno, buon sabato e benvenuti alla rassegna stampa europea di Radio 24 da Giulia Crivelli. Oggi iniziamo dalle Figaro perché non siamo gli unici nel mirino della Commissione europea o comunque osservati speciali della Commissione europea e delle istituzioni europee in generale per le nostre, chiamiamole così, difficoltà a tenere un bilancio in ordine. Le Figaro quindi per esempio ha scritto proprio questa settimana che la Commissione europea si prepara a chiedere alla Francia di fare un ulteriore sforzo sulla riduzione del deficit perché ci devono riuscire a trovare 4 miliardi di spese da tagliare, quindi spending review anche per i francesi. Secondo Le Figaro la richiesta è legata a una differenza di interpretazione di alcune riduzioni degli esborsi tra Parigi e Bruxelles e guarda caso anche Parigi, un po' come Roma, come l'Italia, cerca insomma di dare o di convincere a dare un'interpretazione un po' diversa di quello che sono da considerarsi spese produttive e improduttive. Come vediamo, quindi è una questione che non riguarda soltanto l'Italia. Comunque la Commissione, secondo Le Figaro, chiederà a Parigi appunto di correggere questo errore di interpretazione e ci devono essere questi ulteriori tagli che significano un contenimento dei costi di un altro 0,2% del PIL francese, che significano appunto quei 4 miliardi di cui parlavamo prima. A proposito però di problemi più generali, non soltanto dell'Italia, della Francia, della Spagna, della Grecia, Les Echos e Le Soir, che sono due quotidiani, uno francese e l'altro belga, Les Echos è un po' un Financial Times francese, titolano e spiegano che l'Europa ha in effetti avviato questo mini piano per rilanciare l'economia. Il Presidente della Commissione Europea, quel contestatissimo Jean-Claude Juncker, ha presentato a Strasburgo questo piano di investimenti da 300 miliardi di euro per i prossimi 3 anni. Questo è quanto scriveva Les Echos. Secondo il quotidiano, tutti gli Stati membri sono d'accordo sulla necessità di recuperare questo ritardo ormai accumulato negli investimenti. È un ritardo che è andato accumulandosi dal 2008, quando c'è stato il famoso crack di Lehman Brothers, della banca d'affari Lehman Brothers negli Stati Uniti, che ha un po' innescato la crisi economico-finanziaria, che è poi diventata una scusa. Alcuni sostengono una ragione validissima, altri appunto una scusa per fare ulteriori investimenti. Le Soir spiega invece che esperti e politici europei si interrogano sul dosaggio, tra virgolette, tra finanziamento pubblico e privato e le conseguenze sulle finanze degli stati, l'attrattività di queste misure e la probabilità del successo. Gli investimenti privati saranno azionati da garanzie o da avvii pubblici, scrive sempre Le Soir, che come dicevo è un quotidiano belga. E questo concretamente l'Unione Europea porterà 16 miliardi di euro nell'ambito del bilancio attuale e 5 miliardi saranno forniti dalla Banca Europea di Investimento. Sono cifre oggettivamente molto grandi, ma poi non così grandi se lo guardiamo nel quadro generale che secondo alcuni economisti richiederebbe ben altri finanziamenti, ben altre iniezioni di investimenti pubblici, ma come sempre, come ripetiamo da tante settimane ormai, è proprio una questione di punti di vista. Passiamo a un quotidiano che è molto difficile per me monitorare e che questa settimana cito grazie a Internazionale in edicola da ieri. Questa volta è un quotidiano della Moldovia, Timpul, che spiega come stia continuando il percorso di avvicinamento all'Unione Europea per invertire le scelte fatte finora di tornare nell'orbita di Mosca da parte della Moldova, appunto. È questa la posta in gioco alle elezioni politiche moldave che si terranno proprio domani, 30 novembre. Il paese è diviso, ma sia la coalizione al governo dal 2009, costruito intorno al Partito Democratico Liberale, sia, seppure in misura minore, i comunisti di Vladimir Voronin, sono su posizioni a questo punto filoeuropee. Questo scenario, aggiungo io, si inserisce un po' nelle reazioni che ci sono in questo momento alla crisi tra l'Ucraina e la Russia, cioè ci sono molti paesi, e tra questi probabilmente c'è anche la Moldova, che si sono spaventati da queste mire espansionistiche della Russia, o comunque, se non sono espansionistiche, dall'atteggiamento russo, che è appunto: se decidiamo di cooptare un paese abbiamo la forza economica militare per farlo. E infatti Internazionale riporta anche un altro articolo, questa volta tratto da Newsweek, che fa un po' il quadro su tutti i paesi baltici. L'articolo si intitola "L'ombra del Cremlino sui paesi baltici" e appunto si spiega che anche se un'invasione militare è da escludere, anche perché sappiamo che insomma Putin può fare molti proclami, può fare la voce grossa, però poi rischia l'isolazione protagonismo, come abbiamo visto al G20 che si è tenuto in Australia. Ebbene, dopo la crisi ucraina, gli stati che si affacciano sul Mar Baltico hanno paura della Russia e per difendersi chiedono aiuto alla NATO e all'Unione Europea. E abbiamo visto purtroppo nel caso dell'Ucraina che poi l'Unione Europea, forse anche per l'antico problema di non avere una vera e propria politica estera comune, l'Unione Europea appunto è un po', diciamo, sorda alle richieste d'aiuto che vengono dall'esterno, specie se poi l'avversario, come in questo caso, è la Russia. Veniamo invece a Financial Times, che si è occupato ancora una volta di Jean-Claude Juncker. Sapete, è stato Jean-Claude Juncker, prima di diventare Presidente della Commissione Europea, cioè il Premier dell'Unione Europea, è stato anche Premier del Lussemburgo, il suo paese di origine, e quando lui era Premier ci sono stati molti casi di elusione fiscale. Lo ripetiamo sempre, l'elusione fiscale non è un reato, perché vuol dire semplicemente cercare di sfruttare al meglio le opportunità che alcuni paesi offrono per pagare meno tasse, però è sicuramente una pratica che risulta abbastanza odiosa in un momento in cui poi cittadini normali l'elusione fiscale non la possono praticare, specie quelli che sono a reddito fisso e che nel nostro paese per esempio sono la maggioranza. E allora il fatto che proprio Juncker, mentre era Premier, abbia in qualche caso anche cambiato le leggi per favorire questa elusione fiscale è un motivo che addirittura ha fatto chiedere ad alcuni le dimissioni di Juncker, che però ha detto più volte: non ho alcuna intenzione di dimettermi. Però secondo Financial Times Juncker si sarebbe pubblicamente pentito di aver introdotto o comunque addirittura utilizzato alcune di queste leggi per le elusioni fiscali. C'è poi un'altra questione di cui si è occupata Financial Times, questa volta riguarda Google. Secondo gli Stati Uniti hanno avvertito i legislatori dell'Unione Europea di non politicizzare l'indagine antitrust su Google. Ci sono alcuni illustri precedenti, ricorderete forse la grande indagine antitrust, tra l'altro all'epoca commissario antitrust dell'Unione Europea era Mario Monti, contro la Microsoft, che quasi minò l'integrità della Microsoft soprattutto in Unione Europea, perché fu accusata appunto di essere monopolista. Allora, scrive Financial Times, in una rara dichiarazione pubblica sulle vicende regolatorie del gruppo californiano nell'Unione Europea, la missione USA in Europa ha espresso preoccupazione per la bozza di risoluzione del Parlamento Europeo che preme per una separazione del motore di ricerca di Google da altri servizi commerciali. Vedremo un po', insomma, come andrà a finire. Abbiamo parlato di questo piano di investimenti di circa 300 miliardi presentato da Juncker, se ne sono occupati anche altri giornali, Die Welt, la Libre Belgique, Die Presse. Die Welt è un giornale tedesco, la Libre Belgique un quotidiano belga, Die Presse è un quotidiano austriaco e poi è il periodico della Catalogna, un quotidiano spagnolo. E per esempio... appunto la Welt scrive: Bruxelles agisce, è un segnale, una sveglia. Il quotidiano conservatore tedesco ritiene che il programma di investimento di Juncker sia la misura giusta per aiutare i paesi più colpiti dalla crisi. Detto questo, scrive anche Die Welt, l'UE mette in piedi un fondo relativamente poco dotato, ripeto, 300 miliardi di euro è una cifra enorme anche solo da concepire per noi comuni mortali, però purtroppo se la parametriamo a quanto poi dovrebbero, a quello a cui dovrebbero servire questi fondi, potrebbero essere persino pochi. Appunto, è un fondo relativamente poco dotato per quanto riguarda i fondi pubblici, scrive la Welt. E poi ho scovato, sempre grazie al sito che sapete amo molto, presseurope.eu, un quotidiano invece della Croix, che è un quotidiano francese, che anticipava un po' l'intervento che sapete Papa Francesco ha fatto a Strasburgo davanti al Parlamento Europeo, e la Croix diceva che ci sono, anche se poi una volta ascoltato l'intervento nessuno ha potuto poi contestarlo, perché come sempre Papa Francesco ha detto cose che suonano nella migliore delle ipotesi di buon senso e in un'altra visione suonano sicuramente come cose che forse per quanto riguarda l'equità dovrebbero dire i politici, soprattutto quelli di sinistra, ancor prima che un papa. Però alla vigilia di questo intervento ci sono stati anche alcuni rappresentanti di partiti liberali, come il Partito Liberale Olandese, che hanno criticato un po' il fatto che un esponente di una religione, di fatto il capo appunto della religione cattolica, si presentasse in un'istituzione che dovrebbe essere laica per eccellenza. Però ripeto, poi la Croix scrive anche che poi, dopo aver ascoltato le parole di Papa Francesco, non c'erano veramente motivi a cui aggrapparsi per criticarlo. El País fa invece una lunga, cambiando completamente argomento, una lunga analisi sulla questione israeliana. Il titolo è: gli europei stanno perdendo la pazienza con Israele, e anche se ufficialmente l'Unione Europea non riconosce lo Stato palestinese, come invece ha fatto di recente per esempio la Svezia, molti paesi membri lo hanno fatto in un modo magari anche informale, un segno che gli europei sono sempre meno indulgenti nei confronti del governo di Israele e che la simpatia internazionale per la sua causa è in calo. Questo è quello che afferma José Ignacio Torreblanca, un politologo, nell'intervento ospitato da El País. Purtroppo era l'ultima segnalazione che sono in grado di farvi, tempo sempre tiranno. Ancora un buon sabato da Giulia Crivelli. Rassegna Stampa Europa, in collaborazione con Euronet Plus.